Ancora tu nei miei pensieri, sei un angelo, sei un brivido, fantastica, rara come l'aria che respiro stasera, insieme a te, unica come il sole. Adesso prendimi la mano che ti porto via con me, con me, con me, con me, con me, con me, con me, con me. Questa vita non l'avevo capita, niente aveva un senso, solo tanti fogli da riempire e tanta gente da guardare. Ma quando ho visto te, il mio cuore ha cominciato a volare, i miei occhi erano immobili, le mie gambe tremavano, come mai? È stato un colpo di fulmine, quanto ti vorrei. E adesso che tu sei accanto a me, non pensare a niente, solamente a noi. Ancora tu nei miei pensieri, sei un angelo, sei un brivido, fantastica, rara come l'aria che respiro stasera, insieme a te, unica come il sole. Adesso prendimi la mano che ti porto via con me, con me, con me, con me, con me, con me, con me, con me. Sai, prima di te era tutto un inferno, anche d'estate pioveva, solo di notte mi sentivo me stesso. Ma adesso che ho trovato la mia stella, non penso più al resto e resto fermo a guardarti e colgo questo istante per dirti sei fantastica. Ancora tu nei miei pensieri, sei un angelo, oh no, sei un brivido, fantastica, rara come l'aria che respiro stasera, insieme a te, unica come il sole. Adesso prendimi la mano che ti porto via con me, con me, con me, con me, con me, con me, oh no. Come, yeah.